24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 19 minuti e 40 secondi, inizia a quest'ora la terza parte di 24 Mattino di questo mercoledì 24 giugno. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Ciao Maria. Ciao, ciao Simone, buongiorno, buongiorno a tutti. Si parla molto in questi giorni di quando, se e come arriveranno i fondi europei, che sembrano, ahimè, preoccupantemente distanziarsi. Ebbene, io i pochi secondi della consueta rubrica Tutto il mondo e paese questa mattina li vorrei dedicare a un sondaggio pubblicato dal Guardian, il quotidiano britannico, e fondato su una ricerca fatta dal European Council on Foreign Relations, che ha effettuato questa ricerca su 9 paesi europei. A parte alcuni dati scontati, vale a dire molti degli intervistati considerano che l'Europa sia stata irrilevante nella crisi della pandemia, per esempio il 58% dei francesi la pensa così, ma il dato che invece emerge è che un po' tutti gli intervistati in questi nuovi paesi chiedono una maggiore cooperazione tra paesi europei. Gli intervistati italiani, più del 75% si aspetta che dopo la pandemia l'Europa sia più unita e prenda delle decisioni comuni. Quindi questo sondaggio rileva due cose: che in prima battuta l'Europa non è stata per niente avvertita, come dire, attiva e vicina nei mesi della pandemia, e che ora gli intervistati di questi nuovi paesi si aspettano che invece lo diventi unita e effettiva e cooperativa. Vedremo se le loro aspettative, le loro speranze verranno rispettate. Di cosa parliamo oggi? Inizieremo parlando di corruzione dopo il caso di ieri che riguarda la metropolitana di Milano, e poi in chiusura di trasmissione andremo sulla scuola e su queste linee guida che sono arrivate e che fanno già discutere per quanto delegano ai singoli istituti scolastici. Iniziamo però appunto dalla corruzione, il caso di ieri, appunto il caso che riguarda un dirigente dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, un'inchiesta che riguarda appunto le tangenti che questa persona avrebbe preso, stando alle inchieste dei magistrati e a leggere le intercettazioni, cioè, insomma, sembra ci sia molta sostanza, per appunto favorire delle aziende negli appalti. Siamo con Gerardo Colombo, ex magistrato, lavorava nel pool Manipulite, come sapete, attualmente presidente della casa editrice Garzanti. Buongiorno Colombo, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno. Ed è con noi anche Francesco Merloni, che è il presidente dell'ANAC, che è l'autorità nazionale anticorruzione. Merloni, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Eccoci qua. Maria, buongiorno a tutti tu? E due. Sì, in realtà la domanda parte da quello che è un dato di fatto, quasi una banalità, no? Perché diciamo sempre che in Italia le opere sono bloccate, si fermano perché i manager o i burocrati non si sentono di assumere delle responsabilità. Ora, io ho letto le cronache riferite a questo dirigente, non ai vertici ma nella fascia intermedia dell'ATM di Milano, e a quanto pare da anni questo dirigente faceva il bello e il cattivo tempo, decideva lui. Allora le chiedo, Gerardo Colombo, ma vale anche per Francesco Merloni se vorrà rispondere: i controlli ci sono o non ci sono? Perché a quanto pare questo manager Bellini aveva la possibilità di decidere e di farsi il conto gabbietta, come lo chiamava lui, in totale autonomia. Adesso io lascerei perdere questo caso concreto, del quale è necessario aspettare poi le sentenze. Abbiamo un articolo molto bello della Costituzione che dice, l'articolo 27, che dice tra le altre cose che fino alla sentenza definitiva chiunque è considerato innocente. E quindi aspettiamo le sentenze, però si può fare un ragionamento sul sistema. I controlli ci sono, secondo me molto spesso sono dei controlli formali, e la sostanza quindi può scappare. la sostanza può scappare. D'altra parte, sempre lasciando perdere questo caso, perché per i motivi che dicevo, in un paese in cui la corruzione è diffusa, delle volte può succedere che siano un pochino distratti anche i controllori, perché può succedere anche questo. Io rifaccio le esperienze di Mani Pulite, sono passati quasi 30 anni ormai dall'inizio delle indagini, è passato tanto tempo anche dalla fine, le indagini sono finite, quelle di Mani Pulite, ma la corruzione è rimasta. Sono successe tante cose. Tra l'altro, Colombo, mi permette, sì, la questione della metropolitana milanese è particolarmente evocativa, no, per voi che avete fatto parte del pool. Ci sono tante cose evocative, sì, ce ne sono veramente tante di cose evocative a Milano, ma non solo a Milano. Ecco, stavo dicendo che io mi rifaccio a quelle esperienze, insomma, a noi è successo anche di occuparci e non poco, anche dei controllori, anche dei magistrati alla fin fine, nel senso che le indagini sulla corruzione hanno riguardato, ma per tanto tempo, anche alcuni magistrati, più controllori di coloro che applicano le regole a chi ha trasgredito alle regole. Credo che non ce ne siano, no? Francesco Merloni, da quell'epoca ovviamente tante cose sono cambiate e abbastanza di recente è stata istituita l'Autorità Nazionale Anticorruzione che lei adesso presiede, presieduta, lo ricordiamo, fino a poco fa da Raffaele Cantone, che adesso è a capo della Procura di Perugia. Autorità Nazionale Anticorruzione che si pensa che possa essere un argine a tutto questo. La mia domanda è se in casi, rimaniamo sempre fuori da questo che dovrà, che al momento è solamente un'inchiesta, lo ripetiamo, ci vogliono tutte le garanzie del caso, anche le intercettazioni, per quanto queste siano estremamente esplicite, sembrano essere particolarmente esplicite, poi non sono qualcosa di definitivo, non fanno sentenza, no, ovviamente. E però vorrei capire da lei se i poteri che avete, se i meccanismi automatici di controllo funzionano, se non funzionano. Merloni. Allora, noi non facciamo il lavoro dei magistrati, ovviamente non accertiamo responsabilità dirette. Noi lavoriamo sulla prevenzione e quindi aiutiamo le amministrazioni a darsi delle regole che riducono il rischio di fatti corruttivi. Questo significa che la nostra comunque è un'iniziativa che dà frutti, diciamo, nel medio periodo. Si tratta di convincere il complesso delle nostre pubbliche amministrazioni a dotarsi di regole di carattere preventivo. Non necessariamente più controlli, ma controlli più efficaci, tracciabilità delle decisioni, molta più trasparenza. Quindi in realtà noi vediamo che il processo è lento, ci sono resistenze nelle amministrazioni. Il caso che ci riguarda, e ovviamente non parlo dell'episodio corruttivo, è di una società in controllo pubblico, però di carattere privato, nel quale eventualmente il reato sarebbe compiuto da un soggetto che non è formalmente un funzionario pubblico, ma sarebbe un incaricato di pubblico servizio. Il quale opera all'interno di una società che si arriva a vedere il sito, sono andato a vedere il sito della società, ha adottato tutte le misure previste. Quindi il problema è di capire se anche una società come l'ATM concepisce la politica anticorruzione come un mero adempimento. Questo è un rischio che noi vediamo. Io mi metto in pace, adotto una serie di controlli, di procedure, eccetera, e poi non mi preoccupo di attuarli effettivamente. Ecco, il punto che forse su cui dovremmo riflettere un po' tutti, naturalmente anche per migliorare la politica di prevenzione, è come fare in modo che queste misure, perché sono misure di carattere organizzativo, come dire, che isolano, sì, il fatto corruttivo, siano effettivamente condivise e soprattutto il management in questo caso, diciamo, oppure gli organi di indirizzo in un'amministrazione capisca che quella è una misura essenziale per ridurre il rischio corruzione. C'è da lavorare, ma la strada è una strada che noi seguiamo non per invenzione italiana, ma perché così si fa in tutta Europa, le convenzioni internazionali puntano moltissimo sulla prevenzione e con questo approccio. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, c'è anche il 349-238-6666 per gli sms, messaggi su WhatsApp, anche audio, le vostre voci se volete dire la vostra. Una pausa e poi ritorniamo con Colombo e Merloni. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Ci scrive Andrea, per esempio, le leggi e i regolamenti possono aiutare a rendere più difficile la corruzione e il malaffare. È vero che se ne fai troppi rischi di bloccare le opere da una parte, oppure di rendere più facile la corruzione perché nelle pieghe della legge o del regolamento magari si innesta proprio il comportamento di malaffare. Maria, prego. Sì, mi piaceva tornare alle parole che Merloni ha pronunciato prima. Esistono le regole, poi si possono semplicemente, applicare per forma. Allora, è la domanda delle domande, Merloni, ma come si fa a convincere un funzionario pubblico o privato del fatto che cancellare un'informativa da una questione tecnica e quindi mettere a rischio tutto un sistema perché utilizzare un mezzo tecnico inappropriato può mettere a rischio tutto un sistema di viabilità, come poi è successo anche nei mesi scorsi a Milano. Ecco, come si fa a chiedergli di avere una coscienza, perché noi non sappiamo quanto valgono queste intercettazioni, ma leggendo queste intercettazioni c'è un colloquio del funzionario in questione che dice sì, ma cambia quella cosa, tanto non se ne accorge nessuno, a meno che non ci sia un incendio in galleria. È una questione di coscienza, si sarebbe detto un tempo. La coscienza, parafrasando Manzoni, non te la può dare nessuno, o ce l'hai o non ce l'hai. E allora? Appunto, il problema dell'approccio della prevenzione non si fonda solo sulla coscienza del singolo, ma cerca di creare le condizioni oggettive di contesto per cui quel singolo, anche perché noi non possiamo escludere mai che ci sia comunque un funzionario, un tecnico determinato a corrompersi o comunque sensibile a fatti corruttivi, questo non lo potremo mai escludere. Possiamo ridurre il rischio inserendolo in un contesto in cui diventa difficile compiere quegli atti e anche avere un contesto in cui anche i colleghi intorno a lui sono in grado di vedere se c'è qualcosa che non va, di segnalare, di rifiutare un modello di questo tipo. Cioè, quindi si tratta di, per esempio, i famosi codici di comportamento non sono soltanto una questione personale individuale, ma anche un problema collettivo, cioè si tratta di avere un sistema nel quale tutti i dipendenti di una società come questa concepiscono il proprio ruolo, il proprio prestigio anche nel rifiutare fatti corruttivi e quindi isolare il corrotto corruttore. È un processo complesso, ma che non si fonda sulla sola personale adesione. Ecco, questo vorrei dire, quello che noi facciamo e che l'ordinamento fa non è un discorso moralistico, non gli si dice devi essere buono, si dice ti devi comportare in un certo modo e lo si dice a lui e a tutte le persone che con lui lavorano. Quindi questa è la tecnica di isolamento del rischio. C'è, non so se mi sono sì, sì, mi pare di sì. Colombo, mi sembra che ci sia un po' come è quello che dicevamo leggendo il WhatsApp che ci è arrivato dall'ascoltatore, un po' questo tira e molla continuo in questi anni tra quello che, se vuole, ha scatenato anche Mani Pulite, ossia una quasi un sovranormare sui temi degli appalti pubblici per rendere sempre più stringenti le regole ed evitare che ci fossero episodi corruttivi da una parte, e dall'altro lato il fatto che in parte questo sovranormare ha generato dei blocchi, per cui si è arrivati al punto nel quale le opere sostanzialmente si fermano, la complessità delle regole impedisce anche ai funzionari pubblici di muoversi. Cioè c'è una tensione, no, che mi sembra che abbia percorso in questi ultimi 20 anni il paese su questo fronte. Sì, no, ma sicuramente, secondo me, alla fine di tutto la questione è una questione di fiducia, no? E le regole si moltiplicano tanto più quanto meno esiste fiducia nelle relazioni tra cittadini e tra cittadini e istituzioni. E la fiducia, secondo me, si recupera attraverso una formazione, io direi, capillare e molto, molto indirizzata agli aspetti motivazionali. Noi siamo abituati a porre regole che hanno soprattutto degli aspetti impositivi, piuttosto che non a cercare di spiegare, ma io direi proprio di spiegare alle persone perché è necessario mantenere un certo comportamento. Il devi, senza dare la spiegazione del perché, molto spesso è sterile. Tutte le volte in cui il controllore gira lo sguardo da un'altra parte, se non esiste il motivo per cui è necessario mantenere un certo comportamento, quel comportamento generalmente non lo si tiene. Allora io credo che sia proprio necessario coinvolgere le persone, ci sono gli appartenenti al pubblico e gli appartenenti al privato, no? Che collaborano nella corruzione, e quindi sia gli uni che gli altri, motivare le persone al rispetto degli altri. Io più che di coscienza. Dottor Colombo, mi scusi se la interrompo. Quanto ci perdiamo noi come Italia, come prodotto interno lordo, come modernizzazione, per i fatti corruttivi, sì, che arricchiscono pochi e impoveriscono la comunità? Ma ci perdiamo sotto tanti punti di vista. Ci perdiamo sicuramente economicamente, è difficile fare un calcolo serio di quanto ci perdiamo. Generalmente si fanno dei ragionamenti statistici che però sono necessariamente molto molto approssimativi, perché la corruzione è difficile da scoprire, no? E quindi c'è molto di sommerso, ma noi ci perdiamo non soltanto sotto quel profilo, ci perdiamo sotto l'altro profilo della funzionalità e della efficienza del sistema nel suo complesso, no? Mani pulite si scopriva che alcuni lavori erano si stabiliva di fare alcuni lavori al solo scopo di prendersi le tangenti, per cui c'erano le strade non finite, le piscine da cui si staccavano le piastrelle prima ancora che venissero inaugurate, eccetera. Ma chissà quante cose c'erano di quel tipo. Adesso io faccio altro, ho lasciato la magistratura che sono 13 anni, sì, anche un pochino abbondanti, quindi sono nelle condizioni di qualsiasi altro cittadino che legge i giornali o poco più. Allora, però succedeva che veramente c'erano, il sistema era un sistema, allora la corruzione era molto molto legata al finanziamento illecito, ai partiti politici, sì, che sembra essere un fenomeno molto più marginale oggi. Allora è più pulviscolare e personale, mi sembra di capire. Vorrei tornare a Francesco Merloni chiedendogli questo. Noi veniamo da un paio di mesi di leggi piene di deroghe, Merloni, piene di deroghe per la questione dell'emergenza Covid, per tutto quello che sappiamo. E ovviamente in tutto questo le amministrazioni locali e anche le amministrazioni sanitarie delle regioni sono state coinvolte. Legge qualche rischio in tutto questo? Ah, non c'è dubbio alcuno che ci sia il rischio. Questo rischio non l'ho segnalato io, l'ha segnalato il procuratore nazionale antimafia, l'hanno segnalato il procuratore di, di Milano e di Napoli, è evidente che il rischio c'è. D'altra parte è anche comprensibile, le deroghe in emergenza sono deroghe consentite dalla legge, occorre fare rapidamente degli acquisti e le deroghe sono indispensabili. Il punto è intanto che le deroghe possono già essere giustificate dall'emergenza, ma non in un tempo infinito. Secondo, che ci vuole qualche antidoto, qualche contromisura. E io continuo a pensare che la tracciabilità delle decisioni e la trasparenza siano essenziali. Noi facciamo pochissima trasparenza. Le amministrazioni si difendono, il famoso riflesso della paura della firma, eppure dobbiamo immaginare un'amministrazione in cui meno regole, più responsabilità, ma anche più trasparenza. Non c'è dubbio che le regole vadano semplificate per non essere poi derogate, e poi però ci vuole più trasparenza, più possibilità di controllare anche da parte dei cittadini. Maria, hai un'ultima domanda, sì, magari per Gherardo Colombo. Volevo chiudere con una domanda a Gherardo Colombo. Lei giustamente ricordava di aver lasciato la magistratura 13 anni fa. Noi ci occupiamo della magistratura sotto il profilo delle inquietudini innescate dal caso Palamara, inquietudini che hanno costretto anche il Presidente della Repubblica a intervenire, ricordando, adesso cito a memoria, il basso posso dire codice etico, non sto citando le parole corrette del Presidente. Ma secondo lei, visto che comunque tutti quei maneggi per andare in una procura piuttosto che in un'altra non è che portassero, faccio per dire, un banale aumento di stipendio, ma a un'influenza, a un ruolo di potere, ecco, c'è stato un cambiamento genetico nel DNA di questa generazione di magistrati o è sempre stato così? Ma guardi, cioè, ci vorrebbe un po' di tempo per rispondere articolatamente a questa domanda, perché lei mi fa venire in mente cose di 40 anni fa, quando, non so, era giusto quasi 40 anni fa, no, che Giuliano Turone e io abbiamo scoperto la P2, e sono stati poi magistrati che le indagini le hanno portate da Milano a Roma, e a Roma quasi se ne sono perse le tracce. E così un paio di anni dopo è successa la stessa cosa, precisa identica per i fondi neri dell'IRI, erano 360 miliardi di lire anche lì. Insomma, secondo me è stata una cosa stupefacente come si sia riusciti a fare in modo che sostanzialmente tutto sparisse, ecco. Allora, se andiamo allora a quei tempi, cosa c'era? Allora, per certi versi, la magistratura era così, generalmente era dire orientata e dire poco, no? Rispondeva, diciamo, alla regola non scritta, secondo la quale nei cassetti del potere era assolutamente vietato andare a vedere. E quindi era una magistratura la cui indipendenza era comunque una indipendenza molto molto molto relativa, no? Che si trattava magari forse dei reati da strada, andava bene. Poi però quando si trattava di andare a vedere giusto il potere, la cosa cambiava e cambiava molto. Io credo che ci sia stato un periodo in cui si è cercato, no, di andare molto più verso la Costituzione, no? Quell'articolo, sì, 3, secondo cui sì, tutti siamo degni tanto quanto gli altri e quindi la legge va applicata a tutti allo stesso modo. No? Dopodiché è una cosa diversa, no? Quello che sta succedendo adesso. Certo è che quelle riforme che hanno in qualche, sì, misura reso così rilevante la carriera dei magistrati. La Costituzione dice che i giudici sono soggetti soltanto alla legge. Poi però se noi consentiamo o addirittura spingiamo a fare in modo che ci sia anche una carriera, E questo in qualche modo, secondo me, inquina, ha un impatto, cioè c'è quasi un aspetto di carrierismo. La ringraziamo, la ringraziamo. Grazie Gerardo Colombo, ex magistrato, presidente della Garzanti, Francesco Merloni, presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Una brevissima pausa e poi abbiamo pochi minuti però con Antonello Giannelli, presidente dell'associazione Presidi. Beh, una nota sulle linee guida arrivate ieri sulla scuola, la dobbiamo dare. Mattino. Antonello Giannelli, presidente dell'associazione Presidi, bentornato ai nostri microfoni. Mi sembra che si scarichi un po' tutto sulle vostre spalle con queste linee guida. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Innanzitutto, sì, condivido abbastanza. Il punto è che noi ci aspettavamo delle indicazioni che più precise, più specifiche, tanto per dirne una, quello che si può definire il livello minimo di servizio. In altri termini, una cosa che insomma le scuole non dovrebbero decidere una per una è quante ore poi effettivamente erogare a tutti, lasciando poi a ciascuna l'individuazione della soluzione ottimale. Invece in questo modo effettivamente si demanda tutto a dei tavoli regionali composti da tantissime persone che credo che avranno qualche difficoltà a dare a loro volta indicazioni concrete e operative. Vede, l'autonomia è una gran bella cosa nella quale noi crediamo, l'autonomia scolastica, però il problema è che non è mai decollata da 20 anni in qua, quando è stata istituita, perché sono mancate due elementi essenziali. Uno, le risorse. Infatti nel piano si dice fate, però poi non si danno le risorse. E secondo, la libertà di gestione dei dirigenti scolastici. E chiaramente ai dirigenti scolastici bisogna dare la libertà di gestire il personale, le risorse economiche, le risorse logistiche in modo più chiaro di come è stato fatto finora, ma finora in questi 20 anni intendo. E su questi due punti purtroppo non ci siamo. Ecco, vedremo se le linee guida che non sono state ancora comunicate dal ministro Azzolina interverranno in chiusura per essere più precise. Queste sono solo anticipazioni. Le chiedo, tra le anticipazioni c'è anche il fatto che si tornerà a scuola il sabato, così come le generazioni precedenti hanno sempre fatto, si andava a scuola il sabato. Naturalmente anche su questo si è subito mugugnato un po', perché ci sono magari genitori, famiglie che pensavano al weekend, e un po' perché magari anche per gli insegnanti avere un giorno libero in più faceva comodo. Dopo tutti questi mesi in cui giustamente le famiglie si sono lamentate della perdita di conoscenza, perché tutto quello che è stato fatto online non può essere considerato risolutivo, non le pare opportuno questo ritorno a scuola il sabato? Ma guardi, in questa storia del sabato, in circostanze in cui si fa un po' una tempesta nel bicchiere d'acqua, e da questo punto di vista le linee guida sì dicono si può andare a scuola il sabato, ma questo lo sapevamo anche prima, così come è rimesso davvero all'autonomia scolastica. Non vedo onestamente nulla di risolutivo e di particolarmente significativo nell'andarci o nel non andarci. Quello che conta, ripeto, è il numero poi di ore di lezione effettivamente erogate. Quindi è questo che manca, perché io non riesco a capire da questo documento se è possibile apportare uno sconto, diciamo così, al numero di ore complessive, purché però siano garantite a tutti o no. E quindi mi verrebbe da dire che comunque il numero di ore è quello che deve essere, allora non riesco a capire quale sia il vantaggio di farlo in 6 giorni o in 5 giorni, tanto insomma sempre quello. Il vantaggio potrebbe essere che siccome le ore saranno di 45 minuti non si riduce di una giornata il carico scolastico. Non vedo qual è il problema, mi scusi, di andare a scuola il sabato. Noi ci siamo sempre andati e andava benissimo. No, per carità, nessun problema, ma dico le scuole, già ci sono scuole che lo fanno e scuole che non lo fanno. Appunto, non è un problema questo e non è neanche una soluzione. Non è la soluzione il sabato. Ascolti Giannelli, come c'è anche una questione che ha a che fare con l'edilizia scolastica, l'organizzazione degli spazi all'interno delle scuole, che rischia di creare qualche disparità anche tra strutture scolastiche, anche disparità forti. Ma dunque, allora guardi, qua il problema è molto semplice, semplice si fa per dire. non c'è stata una programmazione dell'edilizia scolastica negli ultimi, diciamo, 30-40 anni. Questo ha portato al fatto che nelle grandi città... Mi scusi, però qua abbiamo un problema nuovo, no? Oggettivamente. Cioè, edilizia scolastica è il problema storico, quello che abbiamo. Certo. Dall'altra parte adesso noi ci troviamo col Covid-19, quindi con delle necessità di organizzazione degli spazi che sono diverse, evidentemente, da quelle che c'erano prima. Certo, infatti il problema è che non abbiamo aule abbastanza grandi e quindi se l'aula non è abbastanza grande è materialmente impossibile distanziare gli alunni. Cioè servirebbero almeno 2 metri quadri ad alunno, però molte aule delle scuole italiane, una nostra stima grossolana è il 40%, non arrivano a questa dimensione e quindi in queste aule, gioco forza, gli alunni devono stare più vicini, il che significa adozione di misure, di dispositivi di protezione più contenitivi, quindi mascherine di qualità superiore e cose di questo tipo. D'altronde non è pensabile ampliare gli spazi delle aule a piacere. Che cosa pensa dell'esperimento francese? Hanno riaperto a maggio e oggi il presidente Macron diciamo, nota con soddisfazione che non ci sono stati casi di Covid, anzi a quanto pare i ragazzi trasmettono meno la malattia. Dunque l'esperimento francese è andato bene. Ma guardi, allora, gli annunci più o meno di facciata vanno sempre presi con le pinze. Allora, innanzitutto in Francia la riapertura è stata facoltativa, quindi si poteva decidere di andarci o non andarci. Sì, ma poi adesso hanno riaperto tutto. No, per carità, però non dobbiamo dimenticare che l'edilizia scolastica francese appunto è migliore della nostra perché è più nuova e più adeguata alle esigenze attuali e non dobbiamo neanche dimenticare che in Francia si va a scuola per tutto giugno, quindi è ben difficile, è diversa la situazione rispetto a noi. Forse si sarebbe potuto fare Giannelli, in 10 secondi. Grazie a Tonello Giannelli, presidente dell'associazione Presidi, dell'associazione di dirigenti scolastici, per essere stato con noi. Cara Maria, noi ci risentiamo domani alle 8:20. A domani, ciao. Carmelo Lauricella in regia, Anita Panizza, Gloria Guerrera, Alessandro Marco Tulli, i nostri autori Margherita Ine e Francesco Ciaraffo. Ciao, a domani.